This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Benvenuti a tutti, ascoltatori e ascoltatrici, non vi sembrerà vero, ma siete a This Is Not an Exit. Sono le 21 e 11 minuti primi, più o meno ormai l'orario nostro consueto, dopo il meteo, dopo il giornale Radio Lavoro. Non avete sentito le solite, come dire, melodie urticanti, ma un brano che viene direttamente da Sanremo 1988, i De Novo. E adesso vi spiegheremo il perché. Intanto saluto il dottor Scarpa. Buonasera a tutte e a tutti. E il dottor Cortesi, poi salutiamo anche il dottor Corrias che sta traslocando, quindi un po' impegnato, ma soprattutto questa sera, ed qua svegliamo l'arcano di queste musiche inconsuete per noi, abbiamo nei nostri studi Gioiello Triolo, che già venne con noi a presentare un libro qualche anno fa, ma questo libro è un po' diverso, giusto Luciano? Sì, rispetto a quello lì, sì, è un libro che parla di Sanremo e quindi... già scatta il pregiudizio solamente a pronunciare questo parolone, perché lo sappiamo, insomma, che Sanremo, per chi è abituato agli ascolti che non siano proprio quelli canonici, che passa la radio tutti i giorni, è un po' visto con un po' di disbiego, no? Però la sfida era proprio questa, di fare una cosa su Sanremo che fosse dedicata a chi a Sanremo è andato a fare la differenza. Sì, finché era Fausto, come dire, era nelle nostre corde. Sì. Sanremo, in realtà l'abbiamo già fatto l'anno scorso, una puntata sul peggio di Sanremo, ma questo qua invece, come dire, è una cosa molto più colta come approccio. Il libro sì, parla degli intrusi a Sanremo. Era proprio quella di fare il meglio di Sanremo. Esatto, a rovescio, quindi gente che ha portato quello che per noi non è sia... non so, noi saremmo un po' puristi o transisti, ma per noi Sanremo non è certo il meglio della canzone italiana, o comunque noi di solito non guardiamo italiano, ma qualcosa entrava. Sì, beh, perché anzi, parecchio. Decidere qual è il meglio della canzone italiana è difficile. Sanremo è la canzone italiana, perché la canzone italiana è quella lì. Che poi noi abbiamo gusti di altro genere, quindi anche quando è fatta in Italia ha dei riferimenti che arrivano dall'estero, è piuttosto normale, perché un po' siamo cresciuti, dico noi perché insomma parliamo di gente che ascolta musica regolarmente, insomma, quindi è abbastanza normale che appunto i riferimenti siano quelli del rock, del jazz o dell'hip hop, dipende dall'età, insomma, e che sono musiche che non sono nate in Italia, quindi noi che siamo appassionati di musiche che arrivano dall'estero facciamo fatica ad appassionarci anche alla musica italiana. Io nello specifico invece, che sono un appassionato di rock, di jazz, di hip hop, un po' meno, però qualcosa mi piace anche di quello, ho sempre coltivato anche la passione in alcuni momenti storici malsana per la canzone italiana classica, insomma. Nell'idea di questo libro all'origine c'era proprio di tirar fuori solamente le apparizioni del rock a Sanremo. Nasce così, cioè il libro in origine si chiamava Il rock a Sanremo, fine. E avevo deciso che sarei partito da Adriano Celentano, che è il primo per il quale si è pronunciata la parola rock and roll, in quel caso però questa parola nell'ambito del Festival di Sanremo, per arrivare fino a Perturbazione, diciamo, che sono stati un po' l'ultimo gruppo classicamente definibile rock presente al Sanremo di qualche anno fa. Eppure il rock, anzi l'hard rock, entrava anche Sanremo già in tempi non sospetti, addirittura nel 71. Nel 71 io infatti, questo era un 45 giri che io all'epoca avevo comprato, perché mio fratello, che era più grande di me, mi diceva devi comprare, perché io avevo giradischi a casa, loro, i miei fratelli più grandi non ce l'avevano, io invece, che me l'ero fatto regalare perché non mi ricordo, c'era una comunione o di queste cose qua, e i miei fratelli mi dicevano quali dischi dovevo comprare. Per loro? Con le mie mancette, eccetera. Ma io li ringrazio ancora adesso, perché in realtà grazie ai loro consigli poi mi sono comprato dei bei dischi. E nel 71 mi dicevano ti devi comprare una storia. Io dicevo ma fa schifo, di Sergio Endrigo non mi piace, è brutta. Io nel 71 avevo 10 anni più o meno. E Sergio Endrigo non mi piaceva, perché proprio rappresentava la melodia italiana, il cantautore triste, eccetera. A me piaceva. E lui mi diceva ma no, quella di Endrigo, devi comprare quella dei New Trolls. E io quel 45 giri ce l'ho ancora, ed è una bomba hard rock psichedelico sul genere dei gruppi americani dell'epoca, nella fattispecie Vanilla Fudge, che i New Trolls non hanno mai nascosto di aver emulato in qualche modo, piena di assoli di chitarra, break ritmici, armonie vocali, cambi di tempo. È buffissima, sentiamola, una storia, i New Trolls. We'll be right back. libertà. Con me riesci solo a dire due parole. Ma noi un tempo ci amavamo. Con Elisa guardi le vetrine e non ti stanchi. Lei ti lascia e ti riprende come quando vuole. Lei riesce solo a farti male. Ti ha preso anche la dignità. Fingere, fingere, fingere, non sai più fingere. Senza di lei ti manca l'aria. Mi è scappato il cursore, scusate, no, siamo sempre su This is not an exit, un po' di distorsione dovevo metterla. Comunque, a parte gli scherzi, il libro io me lo sono spiegato bene, è molto bello perché racconta un sacco di cose che per noi ignoranti in materia. Sai che non abbiamo ancora fatto una cosa che è fondamentale in una trasmissione così, però, dire come si chiama il libro. Infatti, stavo per dirlo, il libro si chiama Intrusi a Sanremo. Ed è molto ben fatto perché di tutti questi intrusi io non sapevo praticamente niente, soprattutto in alcuni periodi, poi non guardando Sanremo. Poi è bello perché ci sono tutti gli autori. Sì, Intrusi a Sanremo, il rock e le innovazioni nella storia del festival, per la crack di Johnny, diciamo anche quello. Diciamo tutto, sì. Sì, un'etichetta tra l'altro che ha sempre fatto dei gran bei libri. Come li hai contattati quelli della crack? Allora, io avevo fatto una cosa, un tributo ai Crisma nel 2010, che aveva anche un CD tributo, eccetera. Poi da quello era nata l'idea di farne uno analogo per Fausto Rossi. E solo che la casa editrice con la quale avevo preso gli accordi inizialmente a un certo punto ha fatto marcia indietro. E però l'editore dell'epoca mi ha detto no, perché il progetto a me non interessa più, però se vuoi ti metto in contatto con una casa editrice di amici miei che hanno una casa editrice che si occupa nello specifico solo di musica e prova a sentire loro. Tra l'altro ne gliene parlavo così distrattamente, sembrano interessati, e così li ho contattati e effettivamente era vero, erano interessati. Poi da lì è nata questa collaborazione. Marco Refe, che è l'editore, diciamo il boss della casa editrice, siamo rimasti in contatto da allora, e a un certo punto mi è venuta in mente questa idea di fare un libro sul rock a Sanremo. Gliel'ho proposta, lui era piaciuta. E poi si è allargata, appunto, come dicevo, in temi che vanno anche oltre il rock, ed è diventato un libro che per forza di cose ha dovuto cambiare titolo perché non c'è più solo il rock. Adesso abbiamo sentito per esempio Alice, che a differenza del pezzo prima dei New Trolls, che quando nel 71 andarono sul palco, i complessi, come li chiamavano allora, non avevano l'orchestra che li accompagnava, si accompagnavano da soli. E nel caso dei New Trolls arrivarono con le pile di Marshall, la batteria con la doppia cassa, eccetera, e la Rai TV non era pronta, fecero un casino. Di fatto il primo verso, ma se andate su YouTube lo cercate si trova, il primo verso di Nico Di Paolo che canta non si sente proprio in TV. Si vede lui che muove la voce, poi a un certo punto il fonico si è svegliato, ha alzato il cursore del microfono della voce. Era invece il pezzo che abbiamo sentito dopo, che era quello di Alice per Elisa, che vinse nel 1981, io ce l'ho messo perché in realtà è una prima volta di un personaggio notevole tra gli innovatori della canzone italiana, che è Franco Battiato, che andò a Sanremo per la prima volta in quell'occasione lì, scrivendo una canzone per Elisa, e cogliamo l'occasione per ricordare Giusto Pio, che è l'autore della parte musicale del pezzo, che è scomparso la settimana scorsa. E erano gli anni in cui a Sanremo si andava a cantare quasi in playback, nel senso che poi qualche anno dopo si cantava proprio in playback. Con le basi. La gente faceva finta di cantare. C'ho la tosse che sta per esplodere, quindi state pronti, potrebbe crepare il vostro apparecchio radio. Crepe sui coni delle casse, attenzione, non tenete troppo alto. E invece Alice cantò dal vivo sulla base, quello che tecnicamente si chiama playback, ma che per noi invece non si chiama così, perché in America, in Inghilterra, senti, sto morendo. Il playback è cantare sulla base. Chissà Vasco di Giovanotti com'era, se è in playback o no, ma ne parliamo dopo, proviamo a riprenderci. Capito tutto. No, Vasco, no, Vasco, io non

vi aspettiamo, venite, che così facciamo due chiacchiere ancora su. Quindi se vi piacciono gli intrusi di Sanremo e se volete avere un libro dettagliatissimo su compositori e tutto quello che è il contesto di quegli anni, di tanti anni, perché Sanremo comincia quando ancora la TV non c'era, comincia in radio. Sì. Nel 55? No, nel 51. Nel 51, la TV arriva dopo, appunto, in quegli anni. La TV arriva, sì, qualche anno dopo, per cui il festival era inizialmente una manifestazione proprio locale, però se ne interessò la radio, perché in quegli anni la radio appunto era molto popolare, perché era l'unico mezzo di comunicazione, no, non era l'unico, diciamo, era il mezzo di comunicazione più figo, perché appunto si ascoltava la radio, le orchestre, i cantanti erano tutti delle star, chiamiamole, come si direbbe oggi, e quindi la radio si interessò e portò i suoi trasmettitori mobili in quel di Sanremo al Casinò e trasmise il festival, che non si sapeva ancora che sarebbe diventato poi un'istituzione così. E in realtà già allora c'erano degli intrusi, perché c'erano già alcuni che cominciavano a guardare oltre il proprio orticello, quindi si interessavano di musica jazz, di swing, di musica che arrivava da oltreoceano. C'erano queste orchestre, l'orchestra Barzizza addirittura, che si chiamava Orchestra Jazz Barzizza, che accompagnava il quartetto Cetra e questi straordinari poi per l'epoca interpreti. Erano tutti, diciamo, molto diversi da come siamo abituati a vedere adesso i cantanti, perché il cantante era solamente la parte solista dell'orchestra e quindi doveva stare bello composto e fermo e senza muoversi, guai a fare gesti o cose del genere, perché uno dell'orchestra non fa queste cose. Era una cosa molto seria, diciamo, la canzone all'epoca, non solo in Italia in questo senso, però voglio dire, l'Italia si era adeguata a questa attitudine. Però aveva un sacco di musica già allora, da oltreoceano, c'erano già. Eravamo provinciali, si può dire? Sì, eravamo provinciali, oltretutto. Forse lo siamo ancora, non lo so. Sì, però adesso è molto più facile esserlo un pochettino meno, nel senso che quello che succede in America, in Inghilterra, in Germania e in tempo Giappone, reale, eccetera, lo sai in tempo reale, perché c'è questa meraviglia della rete che ci consente di vedere cosa succede in giro immediatamente. All'epoca invece serviva, ma all'epoca parliamo fino agli anni 90, serviva un po' di tempo affinché le cose arrivassero anche da noi, per cui quando il jazz, diciamo, cantato, il doo-wop, il swing, eccetera, arrivarono in Italia, la maggior parte della gente non aveva minimamente un'idea di quello che era, e la accoglievano come un'estrema novità. Lo stesso si può dire del rhythm and blues, che in effetti in Italia visse una stagione formidabile di grandissimo successo intorno alla fine degli anni 60, quando in realtà il rhythm and blues in America era una realtà ben consolidata. In Italia venivano i cantanti neri tipo Stevie Wonder, i Four Tops, i Temptations, Smokey Robinson, le Supremes, Wilson Pickett, Benny King, venivano in Italia e cantavano in italiano, perché allora era l'unico modo per entrare nel mercato nostro. Wilson Pickett andò a Sanremo nel 69 e nel 68, anche l'anno prima, e in italiano, cantando e cantò in italiano. In italiano. Poi vabbè, lui si era portato la sua band, quindi c'erano i Memphis Horns che suonavano i fiati, aveva il suo gruppo vero proprio che l'accompagnava nei suoi concerti, e fece per esempio nel 69 una canzone di Lucio Battisti, la prima volta che Lucio Battisti andò a Sanremo, l'unica volta che ci andò di persona, perché ci andò altre due volte come autore, una volta ha scritto La farfalla impazzita per Johnny Dorelli e un'altra volta invece ha scritto Non prego per me per Mino Reitano, che andò a esordire lì, scrisse due pezzi di Mogol Battisti. Nel 69 invece, quando ormai era diventato molto popolare, perché all'inizio non era molto amato Battisti perché aveva questa voce strana, e quelli che hanno la voce strana fanno sempre un po' più fatica a emergere, poi appunto ce la fece, come sappiamo, come la storia ci insegna, e lo convinsero ad andare a Sanremo, e lui per Sanremo andò scrivendo una canzone, credo

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Beh, siete sempre a This is not an exit, non c'entra niente con il nostro periodo, però come dire, se non è un brano immortale nel blu, dipinto di blu, e poi leggendo Intrusi a Sanremo ho scoperto che questo 45 giri ha venduto qualcosa come 22 milioni di copie e vinse 3 Grammy negli anni 50 negli Stati Uniti. Eh sì, i Grammy lo danno negli Stati Uniti, e fu il più grande successo di Domenico Modugno. E ovviamente il primo Grammy consegnato a un musicista italiano. Peraltro, come scrivo anche nel libro, il pezzo fu accolto piuttosto male, perché Modugno, intanto lui aveva partecipato l'anno prima come autore per il quartetto eccetera, l'anno prima o due anni prima, non mi ricordo adesso, comunque diciamo... Comunque siamo nel 58, eh? Sì, intorno al 56-57, non mi ricordo, presentò Musetto per il quartetto eccetera. Poi l'anno dopo andò a Sanremo e presentò Nel blu dipinto di blu, che la cantava nell'altra versione Johnny Dorelli. E... erano già accoppiati anche loro, ma non c'era Wilson Pickett. Non c'era Wilson Pickett. E... ci fu una piccola interrogazione all'interno della commissione del festival, perché dicevano: ma questo scrive la canzone e poi la canta? Perché era una cosa che nessuno aveva mai fatto prima. Uno che scrive e canta da solo, cioè adesso è normale, nel senso che adesso tutti tendono a scriversi le proprie canzoni, non proprio tutti, però diciamo che è abbastanza comune che uno che scrive canzoni poi se le canta. All'epoca invece se lo chiedevano e sono andati a guardare il regolamento del festival, dicevano: beh, ma non c'è scritto da nessuna parte che non si può, se questo è così pazzo che si vuole cantare la sua canzone, facciamogliela cantare. Poi portarono gli spartiti di questo pezzo e c'era Kramer che dirigeva, Gorny Kramer, uno storico direttore d'orchestra, ha lavorato in TV fino agli anni 60 anche con Studio 1, questi i primi diciamo varietà importanti della TV. Dirigeva l'orchestra al Casinò di Sanremo in quell'anno in cui c'era Nel blu dipinto di blu. Gli portarono gli spartiti e Gorny Kramer dice: ma cos'è sta roba? È orrenda questa canzone, non è musica. No. E poi dice: vabbè, grande fiuto. Grande fiuto. Oltretutto, oltre al danno, la beffa, come si direbbe, Domenico Modugno lì inaugurò il concetto di presenza scenica. Perché, come dicevamo prima, il cantante doveva essere un elemento dell'orchestra, quindi composto, fermo davanti al microfono a cantare, cercando di emettere la voce in maniera molto elegante, sempre molto precisa, eccetera. Lui fece questa cosa che passò alla storia, perché sul ritornello di Nel blu dipinto di blu, questa volare, aprì le braccia e fece questo gesto assolutamente ritenuto sconveniente. Come si permette il cantante di prendersi queste libertà, di fare queste... In realtà piacque da matti, tant'è che appunto è considerato lo spartiacque della canzone leggera italiana, è l'inventore lui del concetto di cantautore, perché appunto andò a cantare una canzone sua che poi firmata per il testo anche da Franco Migliacci, che con questa canzone diventò uno dei parolieri più importanti della nostra storia. Poi è stato uno degli autori più importanti per Gianni Morandi, visto che siamo a Bologna, diciamolo, perché Migliacci, insomma, credo che sia stato anche produttore del giovanissimo Morandi all'epoca, Migliacci, e divenne appunto una pietra miliare della canzone italiana, tant'è che appunto si parla molto spesso del fatto che sia partito un po' tutto da lì, per quel che riguarda il nostro modo di scrivere la canzone leggera, fino ad arrivare a gente che mai avrebbe sospettato, agli esordi, nel periodo in cui noi di solito mettiamo musica, cioè fine 80, inizio 90, gli After Hours all'inizio cantavano in inglese, poi, sì, poi mutarono in italiano, ma come dire, penso che un giovane Manuel Agnelli mai e poi mai si sarebbe pensato 20 anni, 25 anni di andare a Sanremo. Poi in realtà ci andò, perché lo convinsero ad andarci, e i fan, diciamo, lo zoccolo duro si scatenò, lo fecero anche con i Subsonica quando ci andarono qualche anno prima di loro, perché come si diceva all'inizio c'è una sorta di pregiudizio nei confronti del festival, un po' giustamente se vuoi, anche perché è proprio il manifesto della tradizione italiana, quindi se tu sei sempre stato un outsider e a un certo punto vai a fare una cosa al manifesto della tradizione italiana, è un po' abbassare la guardia, diciamo. Però, diciamo, se fai questo lavoro, se fai il musicista, se fai il cantante, è un passaggio che ti tocca fare, tra virgolette, perché appunto i Subsonica dicevano proprio che, cioè, per difendersi dai fan che avevano contestato il fatto che loro andassero al Festival di Sanremo, loro dicevano: ma noi lavoriamo con una piccola etichetta indipendente e non abbiamo i soldi per produrre cioè per fare una promozione in grande stile, per andare a fare le trasmissioni fighe o per il video fatto in un certo modo, per avere gli heavy rotation nelle radio giuste, eccetera. Andiamo a Sanremo, con due sere ci siamo fatti 15 milioni di visualizzazioni, non c'era YouTube ancora allora. E in effetti il pezzo dei Subsonica era un pezzo dei Subsonica, perché non avevano abbassato la guardia, e ebbe un successo clamoroso. Non successe altrettanto agli After Hour, perché appunto ebbero un po' di difficoltà anche tecniche, quindi il pezzo non uscì molto bene, però diciamo che a Sanremo ci andarono per la stessa ragione, perché... Ma scusa la domanda, ma e quando ci fu anche la partecipazione di Antonio Rezza, stai parlando? Perché ci fu un'edizione in cui c'erano anche degli artisti, sì, che non erano prettamente cantanti, che però partecipavano a Sanremo, se non sbaglio gli After Hours si presentarono con Antonio Rezza. Sì, che però erano tipo nella serata in cui si presentavano come con degli ospiti, cioè non era in gara Rezza. Insomma, comunque era un altro intruso di Sanremo, sì, Antonio, sì, Rezza, sì, perché sì, davvero sì, infatti, lui era proprio fuori. Se ci allarghiamo agli ospiti, gli intrusi cominciano a diventare infiniti, insomma. Però gli After Hour appunto andarono a fare il paese reale, oltretutto facendo una cosa particolarmente strana, perché era un periodo negli anni 2000, le case discografiche cominciavano a sentire un po' che c'era qualcosa che non funzionava più come prima, e quindi andavano un po' al risparmio. Era arrivato Napster, esattamente. E in generale succedeva che il Sanremo era visto come una promozione, e il pezzo di Sanremo veniva incluso nell'album che magari era uscito qualche mese prima, l'anno prima, veniva rifatto un repackaging, come si dice tecnicamente, del disco già pubblicato, aggiungendo il pezzo di Sanremo. Loro l'anno prima avevano fatto I Milanesi Ammazzano il Sabato, e la Universal, per la quale loro avevano firmato un contratto, dissero che avrebbero rieditato I Milanesi Ammazzano il Sabato con dentro Il Paese Reale. Loro ruppero il contratto, quindi facendo una cosa veramente indie. veramente punk, se vuoi, nel senso che andarono a Sanremo assolutamente da indipendenti, senza neanche un'etichetta a supportarli. Da lì poi nacque l'idea di fare, di far uscire il disco, il pezzo loro, assieme a una compilation di artisti che loro erano a loro affiliati, diciamo amici e cose del genere. C'era Angelini di calibro 35, c'era Paolo Benvenu, eccetera, messa insieme così per diciamo sfruttare il passaggio televisivo degli After Hour e fare una cosa, diciamo, nelle corde del rock indipendente italiano. Subirono critiche anche per questo, ma d'altra parte era un po' questa la loro cifra. Gli After Hour a Piazzale Loreto. Muore. perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, Gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura, emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, la crisi, la crisi, la crisi, parole, parole che sono rumore, parole, parole che sono rumore, rumore, silenzio. E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio. Silenzio ed ore, ed anche quando siamo tanti stiamo zitti in coro. C'è tanto chiasso intorno e non si calma mai. Parole su parole su parole, parole fra noi. Ma se si parla perché si ha la lingua in bocca, è meglio muti come pesce, meglio acqua in bocca. Perciò su un bel tacere non fu mai scritto, restiamo zitti noi e lasciamo parlare i fatti. Non gridare ma ascoltare, non forzare ma lasciarsi andare, non imparare ma dimenticare, il silenzio e lo spazio per poter pensare. Di tromba, ma da sinistra gli risponde uno sbadiglio, troppe voci fanno male, la testa rimbomba e di quello che succede non si sente più nulla. Il silenzio, il ricominciare, il bianco ed il nero, il silenzio e lo zero, ma fra tutte queste grida e richiami della foresta, il silenzio e la quiete dopo la tempesta. Non gridare ma ascoltare, non forzare ma lasciarsi andare, non imparare ma dimenticare, il silenzio e lo spazio per poter pensare. Allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capo fitto. Allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma... E il pezzo che abbiamo ascoltato adesso è la versione in studio di Zitti Zitti degli Aeroplani Italiani, che parteciparono al Festival di Sanremo 92 in una versione diversa da quella che abbiamo ascoltato, giusto? Sì, diversa unicamente per una cosa, perché a un certo punto il pezzo prevede una, quella che tecnicamente si chiama una cesura. Sarebbe una pausa che può essere stabilita a tavolino di una lunghezza precisa comunque. E Aeroplani Italiani, che portarono un pezzo che si chiama Zitti Zitti, il silenzio è d'oro, che in realtà tratta un po' il tema della ricerca della pace sotto metafora del silenzio, per combattere i mali del secolo, eccetera eccetera. Fecero una cosa che è rimasta nella storia del festival. La cesura del pezzo la fecero durare 30 secondi e loro si immobilizzarono sul palco per 30 secondi, che con i tempi televisivi, anche quelli del 92, è stata una cosa scioccante. Un'eternità. È stata un'eternità, sì. Era infatti qualcosa che non avevano concordato precedentemente, giusto? Boh, questo non lo so. Sì, loro dicono di sì, dicono che è stata una cosa improvvisata ed è anche probabile, nel senso che perché non gli dobbiamo chiedere, però credere, però non lo so, a dire la verità. Però fu comunque molto potente, perché in realtà all'indomani nessuno si ricordava bene come faceva la canzone, però si ricordavano che avevano visto quel gruppo che aveva fatto quella cosa. In realtà la canzone non solo è molto carina, ma è anche importante, perché parlando di intrusi e di prime volte, di gente che è andata a fare la differenza, Zitti Zitti è il pezzo che ha portato per la prima volta il rap a Sanremo. Prima nessuno aveva mai usato questa tecnica. Sì, in una maniera molto edulcorata, diciamo così. Ma più che una specie di della soul bianchi. Sì, no? Però voglio dire, è molto, cioè all'epoca il flow era questo, cioè non è, era molto diverso da quello che si usa oggi nell'hip hop anche italiano, insomma. Sì, ma erano poi anche dall'altra parte gli anni delle posse, no? Sì, Frankie Hi Energy, esatto. Qui questo è un modo molto più tranquillo di fare rap, no? Ah, ma ci mise, sì, altri, sì. Ci mise altri 15 anni a sdoganarlo quello delle posse. Eh sì, infatti, però poi voglio dire, ne parlavamo a microfoni spenti negli aeroplani italiani, e in questo pezzo l'abbiamo sentito, la tromba è quella di Frank Nemola, che è stato un personaggio che poi ha militato in praticamente tutti i gruppi che hanno cercato di riprendere il sound R&B o hip hop americano. Qui la tromba è uno strumento molto figo e che ci si adatta molto bene a questo tipo di sonorità qui, e era uno degli elementi degli aeroplani italiani, assieme a Vernetti e ovviamente a Alessio Bertallotto. Peccato che avranno un futuro molto breve, no? Nel senso che dopo questo disco qui ci, sì, sarà un silenzio, silenzio poi lunghissimo. Torneranno con un disco nel 2012, mi pare. Altro che cesura. Non altrettanto valido quanto il precedente. Pensa che io, adesso non lo dovrei dire perché devo fare la parte di quello che sa tutto e che è l'esperto, ma che avevano fatto un altro disco nel 2012, l'ho scoperto proprio facendo le ricerche per scrivere il libro. Un successone, insomma. Sì, non, cioè, è strano perché poi tra l'altro il 2012 così era un periodo anche in cui Bertallotto con le sue trasmissioni radiofoniche aveva anche un po' sdoganato certa musica elettronica della quale io mi interesso, mi appassiono, e quindi mi è capitato di sentire anche le sue trasmissioni, e mi suona strano che mi sia sfuggito che avessero rifatto, oppure l'ho saputo e poi rimosso perché non me lo ricordavo. Comunque, a proposito di fiati, di Sanremo, abbiamo vinto il festival di Sanremo. uccidere un re. E l'amore è un forte uomo. Abbiamo ascoltato i Timoria, ma li abbiamo ascoltati, sai perché? Perché in una dinamica di un libro come questo, che si concentra sulle prime volte, L'uomo che ride dei Timoria è il primo pezzo di un gruppo proveniente dall'ambiente indie italiano ad arrivare a Sanremo. E nel 1991... Nel 92 ci andò l'altro gruppo, clamorosamente indie, nel senso che lo sono rimasti e lo sono tuttora, sebbene il marchio sui loro dischi oggi sia Sony, sono gli Statuto, che abbiamo sentito prima con Abbiamo vinto il Festival di Sanremo, che andarono nel 92, e loro sono l'emblema dell'indie a Sanremo, ma più che altro perché gli Statuto sono indie nell'anima, nel senso, Ska a Sanremo, poi loro sono proprio battaglieri ancora oggi su questo aspetto, hanno mantenuto inalterata la loro natura sempre, quindi in realtà erano anni strani. Stava crollando la DC, tutto quanto, chissà. Sì, probabilmente un po' c'entra tutto questo, insomma. La cosa di Sanremo, degli Statuto, che in realtà attraverso quel festival lì poi hanno probabilmente potuto permettersi di continuare una carriera fino ad oggi. E va detto perché in realtà molti dei pezzi che sono passati a Sanremo sono rimasti il successo più grande del personaggio che ce li ha portati. Faccio per dire, Anna Oxa, il disco suo che ha venduto di più è Un'emozione da poco, che è il suo pezzo che ha portato a Sanremo nel 78. Poi è diventata una istituzione della canzone leggera italiana, ha venduto milioni di dischi, ma non ha mai superato quel livello lì. La stessa cosa Samuele Bersani. Replay non è proprio il primo pezzo che ti viene in mente, che ci viene in mente quando pensiamo a Samuele Bersani, però Replay, col quale andò a Sanremo, è il suo disco che ha venduto di più. Carmen Consoli, con Confusa e Felice, ha avuto il suo più grande successo. Lei è adesso una superstar, diciamo, che vende dischi e che comunque ancora oggi fa la differenza, ma il suo pezzo che ha venduto di più, quindi quello che le ha portato probabilmente la possibilità di fare e di osare un po' di più rispetto ad altri, è proprio Confusa e Felice. E invece i Timoria, che abbiamo ascoltato prima, andarono abbastanza male, ricordo male, con questo pezzo qui, sì, con L'Uomo che Ride. Credo che siano stati eliminati proprio la prima sera, se non la prima, la seconda, però con L'Uomo che Ride andarono, mi pare, nelle nuove proposte, sì. Quindi diciamo era una gara considerata un pochettino di serie B, diciamo. Poi ma poi lo dici nel libro, sì. Se eri un outsider, l'importante era vincere il premio della critica o arrivare ultimo. Arrivare ultimo, infatti. E molto spesso quelli arrivati ultimi poi sono arrivati primi nella loro storia, ma anche nella loro storia, cioè voglio dire Zucchero, Vasco, che abbiamo sentito prima, i Timoria stessi, è tutta gente che a Sanremo ci è andata per arrivare ultima, però lì c'è una giuria, con tutto che poi io qui lo dico e qui lo nego, non ho mai creduto mai nella mia vita al fatto che la giuria contasse qualcosa a Sanremo. Secondo me è tutto prestabilito e va bene così. Aveva ragione Cavallo Pazzo. Non è quello che conta, nel senso che, come si diceva prima, è una vetrina in cui andare a fare, è la fiera, cioè come c'è la fiera campionaria, chi fa questo lavoro va in fiera a presentare il proprio prodotto e ci sta, insomma, che ci vai per vendere i dischi.